si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori e buona Pasqua naturalmente, insomma anche in questa giornata appunto di Pasqua e di attese governative noi facciamo la nostra parte, cerchiamo insomma di girarci dall'altra parte, ma non per far finta di nulla, ma per parlare sempre delle nostre buone notizie, delle nostre storie virtuose, insomma le buone pratiche che aspettiamo tra l'altro anche nelle vostre segnalazioni sulla pagina Facebook, si può fare Radio 24, alla segreteria telefonica 828 12 12, alla mail si può fare @radio24.it, insomma da tutte le parti notizie, per esempio cose così. Allora, domani è Pasquetta, una bella idea è quella di andare in giro con la bicicletta, farà forse anche un pochino più bel tempo in tutta Italia, e allora bici in treno gratis a Pasquetta, l'iniziativa ancora una volta quest'anno di FIAB e Trenitalia. Si può andare in giro salendo sui treni portandosi dietro la bicicletta gratuitamente. Viva le biciclette, dovrebbe essere sempre così, sempre gratis portarsela sui treni, almeno cioè, per i pendolari, poi per gli altri si vedrà. Una iniziativa curiosa che viene da Firenze, incentivi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni più innovative nel campo delle energie rinnovabili. L'Agenzia Fiorentina per l'Energia mette in palio tra le amministrazioni più virtuose nel settore dell'eolico Magellano, che è una turbina speciale da 3 kWh progettata da un'azienda super specializzata, chi mette a disposizione il progetto più innovativo nel campo dell'eolico vince questa turbina, cioè proprio una cosa concreta. Iniziative così sono sacrosante, sono incentivi, ci vorrebbero magari anche i disincentivi, cioè se non fai delle cose innovative e di efficienza energetica io ti faccio pagare di più, ma questo ci vuole più tempo, ci arriveremo. Ecco, quest'altra notizia qua è più che altro una curiosità, no? Si realizza il sogno di Bersani, ma non quello del governo di Pierluigi Bersani, il sogno di Samuele Bersani, cantante, vi ricordate quello che voleva esportare la piadina romagnola? Nasce il consorzio della piadina romagnola e noi siamo contenti perché è un alimento italiano, vogliamo esportare la cucina italiana da tutte le parti. C'era già l'IGP, il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta da qualche settimana, adesso c'è anche il consorzio grazie all'iniziativa di alcuni produttori romagnoli. E va bene, per ora con le notizie ci fermiamo qua, cominciamo invece con i nostri approfondimenti, con le nostre storie. Intanto partiamo con la segreteria telefonica 828 12 12. Io sono Massimo da Firenze e ripeterò una ricetta che è banalissima, è stata già detta, ma forse per quello se proviamo a ripeterla tutti insieme un giorno ce la faremo. L'ha detta purtroppo Bersani in campagna elettorale e vista la campagna di Bersani l'effetto è controproducente, molto semplicemente i più soldi possibili su ricostruzione di strade, edifici scolastici e ospedali. Diamo da lavorare a tantissime persone, facciamo ripartire l'edilizia e se ne ha un beneficio sociale, collettivo per tutti. Qualità della nostra vita italiana, che è l'unica cosa che ci può salvare. Semplice, immediato, si può fare. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Insomma, una bellissima canzone adatta al giorno, tra l'altro al giorno di Pasqua, giorni felici. Insomma, le nostre giornate felici, quelle più felici, possono essere misurate, calcolate in qualche modo, e siccome ognuno di noi lascia traccia di sé, chi li usa sui social media per esempio e in particolare su Twitter, c'è chi si è preso la briga di andare a misurare e a prendere in considerazione gli indici di felicità in un anno di Twitter. Lo hanno fatto quelli di Voices from the Blog con il progetto iHappy. Io saluto, l'abbiamo convocato qua, Stefano Iacus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professore all'Università di Milano, nonché fondatore di questa startup, e voi appunto vi siete presi la briga, naturalmente non a mano, ma con un software, un programma che cosa fa? Prende le parole che ognuno di noi lascia su Twitter e le classifica in buone e cattive, felici e tristi. Esatto, esattamente. Raccoglie, diciamo, le emozioni tra felicità, gioia oppure rabbia, tristezza, così come sono trasmesse attraverso i 140 caratteri di Twitter. Cioè le nostre sfumature sentimentali attraverso il modo in cui scriviamo su Twitter. È una cosa che è venuta fuori già, per esempio, durante le elezioni, avete monitorato anche questo. E invece questa cosa qua sulla felicità, insomma, ci ha incuriosito. 43 milioni di messaggi e vengono fuori delle cose straordinarie, tipo che la città più felice è Oristano. Sì, è vero. Ci fa piacere per loro. Poi adesso cerchiamo anche di capire un po' perché. Quella più infelice è sempre Sarda ed è Sassari. Esatto. Ci sarà un derby straordinario. La differenza tra costa est e ovest, nord e sud, sì sì. E poi insomma, i giorni più felici sono il sabato, se ho visto bene, della settimana, mediamente. Mediamente sono il sabato e il martedì. I lunedì e domenica sono tristi. Perché? Uno realizza che deve iniziare la settimana, invece il sabato è ancora euforico perché inizia il weekend. Domenica invece realizza che è finito il weekend. Il martedì cos'è? Diciamo il martedì è un momento di pausa. Perché una poi... pausa, ci siamo messi alle spalle la tristezza del lunedì e si comincia, esatto, diciamo, a riguardare positivo. La cosa bella sono anche i giorni del 2012 più felici, che sono legati a tre momenti particolari. Esatto. Balotelli. Balotelli, il gol di Balotelli che ci ha portato in finale, quello il calcio tira sempre, diciamo. E lì c'è stato un picco proprio di felicità. Esatto, esatto. È stato un balzo in avanti del 10% della felicità. Invece l'altra cosa molto curiosa è stata la notte del 20 dicembre, quello che era la fine del mondo. Quello prima della fine del mondo è stato un giorno particolarmente felice. Uno dice gli italiani sono matti. Perché, cioè, no, è stato uno scambio di, sì, diciamo, di battute. Perché era chiaro che era tutto un gioco e quindi si è creato tutto un tormentone, così, di ilarità. Esatto, un'altra cosa interessante legata a un evento politico è stata la vittoria di Obama. Quindi la notte del 6 novembre, quando sono arrivati i risultati definitivi delle elezioni americane, anche gli italiani si sono infervorati. E qui c'è più sostanza. Tristi, esatto, sì. Per poi tornare tristi il giorno dopo perché si sono resi conto che quello è un dato americano, noi siamo in Italia. E noi siamo... Ah, ecco, vedi, c'è stato un risveglio. C'è un po' la battuta, sì. Stefano Iacus, fondatore di Voices from the Blog, autore di questo progetto iHappy che avete fatto tra l'altro in collaborazione in qualche modo anche con Wired, credo, che almeno vi ha aiutato a pubblicare i dati. C'è un bel fascicolo online per chi volesse rivedere. Un bel ebook, sì, esatto, per chi volesse rivedersi tutta questa ricerca sui giorni più felici del 2012. Va detto anche che dopo Oristano ci sono Bologna e Modena tra le città più felici. La città più felice è effettivamente Modena tra le grandi città italiane. Uh-huh. E in generale l'Emilia sembra essere la regione più felice d'Italia. Si conferma come una terra così felice, beati loro. Sono allegri. Senta, già che ci siamo, Milano come va? Milano è un po' in basso, è 25esima tra... Lo sospettavo, non so perché, ma... Roma ancora più in basso. A Roma ancora peggio. Esatto. Senta, ma alla fine no, vi sarete domandati anche vabbè, voi monitorate tutto su Twitter, quindi diciamo vivete anche voi un po' in questo orto dove pascolano i 140 caratteri. Però quanto è rappresentativo secondo voi del mondo reale il mondo di Twitter? Così. Allora, c'è uno strano effetto dal punto di vista statistico, non è una popolazione rappresentativa, diciamo, pensandola come popolazione demografica. Quindi è sicuramente solo una parte che frequenta i social media. Però per qualche motivo si crea un effetto strano per cui le reti al di fuori dei social network, quindi le reti amicali o di lavoro e così via, di persone che non partecipano ai social network, in qualche modo vengono comunque catturate dai social network attraverso questa strana relazione. Per cui in realtà i social network amplificano qualcosa che esiste nella vita reale e noi l'abbiamo visto nel caso delle elezioni sia americane, perché abbiamo monitorato anche quelle, sia quelle italiane, che comunque il dato che noi registriamo è molto vicino al dato del sondaggio tradizionale, pur non avendo le caratteristiche statistiche che ci si aspetterebbe. Mm. Quindi insomma c'è una sorta di effetto megafono, insomma, di amplificatore, esatto, di amplificatore, ecco, forse possiamo dire così. Anche se poi ci saranno sicuramente delle tematiche che non entrano su Twitter, è evidente, perché... Sì. Senz'altro noi possiamo analizzare solamente quello di cui si discute su Twitter. Quello che entra. Non possiamo fare domande, possiamo solo ascoltare quello che le persone si scambiano su... Diciamo che però la cronaca, per esempio, la grande cronaca entra e voi l'avete misurato, uno dei giorni meno felici, forse il meno felice dell'anno, per gli italiani è stato il giorno dell'attentato a quella scuola in Puglia, no? Esatto, la scuola Morvillo, sì, è stato tra l'altro quello assieme il giorno dopo al terremoto in Emilia. Sono stati due momenti in cui la paura e la rabbia e lo sgomento hanno insomma pervaso sia i media tradizionali che i social media, appunto come Twitter, e questo l'abbiamo registrato. L'altra cosa curiosa è che noi abbiamo messo anche in relazione allo spread, che l'anno scorso è stato un mantra di questo paese, sì. E il giorno più triste in assoluto dell'anno è stato il 23 luglio, che è stato il giorno in cui lo spread ha toccato 512 punti, cioè il valore più alto del 2012. Quindi non ha ragione Berlusconi quando dice che non ce ne frega nulla dello spread. In realtà, ma non lo so, probabilmente lo spread nessuno sa bene che cos'è, però il fatto che se ne parli e questo metta in qualche modo ansia alle persone, lo incute vediamo. Un po' di timore. Esatto. Qualcosa sta andando male, allora. E l'altra cosa curiosa, a livello di curiosità, è che il 26 del mese sono tutti più felici, perché attendono il 27, che è il momento in cui arriva lo stipendio. Vabbè, qua era facile, anche senza ricerca, professore. Esatto, però viene sistematicamente così ogni mese. Va bene, insomma, era interessante capirci qualcosa. Poi sarebbe davvero curioso capire perché Sassari, Nuoro e Matera sono le città più tristi. Per chiederlo alle persone che ci vivono. Potreste fare un appendice di ricerca per fare qualche domanda, no? E capirci qualcosa, perché tra l'altro noi abbiamo anche due applicazioni, sia per Android che per iPhone, che chiunque può scaricarsi gratuitamente. Ogni giorno viene con la geolocalizzazione, vi viene detto qual è la felicità intorno a voi, provincia per provincia. Ah, questo è straordinario. Ma continuano a essere tristi a Nuoro, a Matera, a Sassari, secondo... Sì, purtroppo c'è questa strana... relazione con la geografia. C'è un buco nero da quelle parti. In Sardegna però poi c'è anche il top con Oristano, esatto. Per cui insomma. Esatto, la costa ovest è più felice della si costa. Devono accontentare. Grazie Stefano Iacus per essere stato con noi. E vabbè, insomma, questa prendetela come volete. Ripeto, c'è anche l'ebook su internet, lo trovate. C'è un sacco di dati e di curiosità. Hanno preso in considerazione 43 milioni di messaggi, quindi il campione non è male. C'è un software che misura tutto e quindi ne vengono fuori delle belle. Adesso cerchiamo di capire come si può essere felici, per esempio, realizzando un sogno. She don't have to speak, no, a single word to me, no. When she opens up her eyes, there ain't no mystery, no, no, no, no. She's so unbelievable. Don't know why there's stars are in the sky. Don't know how this love found me tonight. But something I know for sure. Baby, you're incredible. And now all the whole world. Incredible, dove Ball sta per Bologna, dove si è svolta Incredible, si svolge Incredible, che è un'iniziativa che vede protagonisti il comune, ma anche una serie di altre realtà, tutto per favorire la nascita di imprese attraverso un incubatore, attraverso spazi messi a disposizione, insomma un'iniziativa che desta un po' di curiosità. Cerchiamo di capirci qualcosa di più con Matteo Lepore, buongiorno, l'abbiamo convocato qua anche nel giorno di Pasqua. Buongiorno. Assessore all'innovazione del Comune di Bologna. Allora, dicevamo, una iniziativa che vede insieme pubblico e privato, si mettono a disposizione degli spazi per delle future imprese, per delle start-up. Insomma, e poi si rivitalizzano anche dei pezzi di città. Una cosa tutta virtuosa, ne abbiamo sentito parlare spesso all'estero di cose così. Voi a Bologna la fate. Di che si tratta, assessore? Si tratta di una rete pubblico-privata che da 3 anni è molto cresciuta. Siamo al terzo edizione del bando, selezioniamo progetti innovativi e creativi di impresa, possono partecipare persone fino ai 35 anni, ma ovviamente possono coinvolgere anche persone che abbiano un'età superiore in progetti di impresa, di associazioni, liberi professionisti, studi associati, che vogliono radicarsi non necessariamente a Bologna ma anche in Emilia Romagna, perché per la prima volta questo bando è regionale. Mm-hmm. Prego, prego. Noi diamo soprattutto a questi progetti che vengono selezionati un premio personalizzato sulla base del business plan che viene fatto. Quindi possono essere degli spazi, possono essere dei servizi della rete dei partner che sono aderenti a Incredible o possono essere contributi in denaro, ma questo si decide successivamente sulla base dei business plan, dei progetti che vengono presentati. Ecco, quali sono mediamente i progetti che vengono presentati, in quale settore, di quale settore imprenditoriali stiamo parlando, anche per chi si volesse far vivoli da voi? Prevalentemente sono tre gli ambiti: la cultura materiale, e quindi parliamo di design industriale o design in generale, di artigianato, di industria del gusto, quindi enogastronomia, anche di fashion, devo dire, avevano anche molti progetti di questo tipo. Ci rubate un po' la piazza qua a Milano, eh? Produzione e comunicazione di contenuti, quindi tutto il mondo del digitale, del software, dell'editoria, del cinema e della pubblicità. Bologna è una città molto ricca di fermento in questi ambiti. E poi il patrimonio storico artistico, quindi valorizzazione del patrimonio culturale, musica, arte contemporanea. Devo dire che soprattutto nell'ultimo anno è cresciuta molto la parte ICT e quindi di economia digitale. Beh, insomma, in linea coi tempi. Senta, ci ricordava che ci sono dei finanziamenti messi a disposizione anche per queste imprese, però una cosa che invece giustamente, virtuosamente, non costa nulla se non poco a voi sono gli spazi, magari spazi pubblici che ci possono essere a disposizione. Sappiamo che il patrimonio immobiliare degli enti pubblici è vasto, a volte è inutilizzato. Allora voi giustamente dite: lo mettiamo a disposizione, qualcuno può subentrare, fare una ristrutturazione e via, il gioco è fatto senza costi per nessuno. Quali ci può fare qualche esempio, magari anche nelle scorse edizioni, di cose che sono andate a buon fine ricavando anche idee come queste, insomma, spazi vostri messi a disposizione? Sì, innanzitutto dico che sono spazi nostri, ma anche spazi dei partner, per cui la rete pubblico-privata vale anche per gli spazi. Un privato che ha uno spazio dismesso che deve riqualificare, noi possiamo aiutarlo. Quindi selezionare una startup che incubiamo nel suo spazio dismesso, e ad esempio temporaneamente per 2 anni per fare una custodia, e questo ha un effetto molto positivo ad esempio su alcune aree industriali artigianali di Bologna. In centro storico avevamo una via ad esempio in zona universitaria vuota, con dei negozi, una vecchia tipografia di un comune. Abbiamo incubato lì due imprese di design e di architettura, facendogli un contratto 4 anni più 4, loro si sono presi l'impegno di ristrutturarlo e oggi è una via completamente riqualificata e molto frequentata. Quali sono un po' in generale, ecco, i numeri anche di Incredible, cioè numeri di persone coinvolte, soggetti coinvolti, imprese coinvolte e anche iniziative che sono andate a buon fine, sempre guardando alle scorse edizioni, quella di adesso è tutto ancora apertissimo, no? Certo, ma è un progetto che è cresciuto appunto molto nei 3 anni. L'ultima edizione ha visto 190 progetti presentati da Bologna e dintorni, di cui circa una decina sono stati selezionati e in qualche modo sono entrati in collaborazione attraverso le diverse offerte che l'amministrazione fa. Quest'anno il bando è regionale, quindi possiamo incubare anche progetti in altre città dell'Emilia Romagna, sempre facendo una regia da Bologna, e quindi ci aspettiamo un aumento importante. Uno dei segreti di Incredible è che noi lo incrociamo con altri bandi dell'amministrazione, perché la parte economica di Incredible non è tanto alta, sono soprattutto gli spazi e i servizi. Pochi mesi fa però abbiamo fatto uscire un altro bando da 2,7 milioni di euro con fondi ministeriali a Bologna, 1,7 milioni sul tema ICT e l'altro 1 milione sul tema design, artigianato, moda. Quindi è possibile partecipare a un bando ma anche all'altro e mettere insieme ovviamente le risorse. Senta, assessore, un'ultima cosa in 30 secondi davvero, visto che siamo anche in una fase complicata per l'Italia di avvio di mancato avvio, non si capisce bene, guardando alla politica nazionale, qual è il vostro segreto? Riuscire a mettere insieme ordini professionali, pubblico e privato, in un progetto dove ognuno fa la sua parte, ognuno mette un tassellino, però poi alla fine il risultato, a quello che capiamo, è interessante, è straordinario, no? Il risultato è che Bologna si propone come una città che abilita le persone e le imprese a fare delle cose. Noi ci interessano persone che vogliono venire a Bologna a realizzare delle cose. Crediamo che questo sia il messaggio più importante. Noi vogliamo essere degli strumenti per dare delle possibilità e delle opportunità. E va bene, grazie. Vi verremo a trovare ancora in futuro l'assessore all'innovazione del Comune di Bologna, Matteo Lepore. Un intero popolo che paga il pizzo e un popolo senza dignità. Yeah. Pizzo ci paga il pizzo e tanti ce l'hanno a vizio. Pizzo non paga il pizzo e mi cercano chi l'ha visto. Massimo rispetto a tutti quelli dello pizzo. Pizzo paga il... Nei giorni di Pasqua e Pasquetta facciamoci un bel viaggio nelle terre di Libera, in Sicilia, le terre liberate dalla mafia, e salutiamo Francesco Galante. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a voi. Del Consorzio Libera Terra in Sicilia, che anche questa volta, in occasione insomma un po' di tutte le vacanze, proponete degli itinerari, no? Per chi lo vuole, per chi lo voglia, per venirvi a trovare e scoprire un po' anche quello che fa Libera nelle terre confiscate e ridate a nuova vita proprio da voi alla mafia. Francesco, quali sono le cose che fate per Pasqua? La Pasqua è un buon momento per lanciare un invito se il tempo ci assiste a conoscere una parte di queste terre. In questo caso è l'Alto Boice Corleonese, quindi la zona della Valle Legato, appena all'interno della costa del Palermitano, ma anche spaziando sul Corleonese. Questo è l'ambito territoriale dove è nato il progetto Libera Terra, per poi estendersi alla Puglia, alla Campania. Lo sappiamo, ormai oggi è una vera e propria, un consorzio, c'è anche il consorzio mediterraneo, insomma, è veramente... Più di 1000 ettari di terre, sì, tolte alle mafie locali, riunite sotto il progetto e gestite dalle singole cooperative, che però hanno trovato uno scopo comune, una base comune, riunendosi nel consorzio Libera Terra Mediterraneo. Tra le attività, sì, produttive, conosciamo tutti, vino, pasta, tarali, conserve, le prime marmellate, c'è naturalmente uno scenario, una serie di scenari su cui vale la pena di avventurarsi. Per questo esiste il giusto di viaggiare, il giusto gusto, ovvero il giusto gusto, la possibilità di unire al viaggio la conoscenza di queste produzioni, di questi territori. Noi lo facciamo da un po' di anni e sono ormai migliaia di persone quelle che sono passate per l'Alto Belice Corleonese a conoscere le cooperative di Libera Terra. Un invito in più cade nel contorno, sì, insomma, nei giorni della Pasqua e della Pasquetta. Abbiamo proprio organizzato un tour che è rivolto sia agli interessati alla storia dell'antimafia, al progetto, ma soprattutto a chi cerca il piacere, il gusto, sì, di queste produzioni. Ecco, ma poi toglimi la curiosità, Francesco, perché noi ovviamente siamo animati dalle migliori intenzioni, poi però uno pensa, ma... Cavolo, giornata di Pasqua che vado nelle terre liberate dalla mafia, cioè è un po' anche impegnativo, bisogna essere anche preparati, no? Mentalmente, culturalmente, per fare una cosa del genere. Riuscite poi a attirare veramente, no? Perdonami una domanda un po' crudele, insomma la gente poi viene lì da voi? La gente viene perché ormai è superata la fase scout di Libera Terra, superata la prima percezione. Nei primi anni notavamo molto che sembrava una questione di militanza a vicinanza di Libera Terra. Si cerca un'altra chiave in questi territori, si cerca la bontà di queste produzioni, si passeggia tra vigne e cantine, si degustano vini da vitigno. C'è proprio il piacere, insomma, di stare lì in questi posti meravigliosi e di gustare anche questi prodotti che sono... Nel miglior modo, nella migliore tradizione dell'accoglienza, dell'enogastronomia, proprio perché c'è un particolare non da poco in queste storie. Si fanno prodotti buoni, si fanno vini eccellenti e una serie di altre produzioni. Ho scordato prima di menzionare anche l'olio d'oliva extravergine di Libera Terra, che veramente sta arrivando a risultati qualitativi che stupirebbero. Isperati. Francesco, l'ultima cosa che ti chiedo è il contatto, un contatto internet magari dove venire già a farsi un'idea, magari per le prossime vacanze. Oggi forse è tardi per organizzarsi per il giorno di Pasquetta, ma chi lo sa, magari invece sì. Lanceremo altri inviti e altre occasioni. Il riferimento è un link, soprattutto ilgiustodiviaggiare.it. ilgiustodiviaggiare.it è il portale da cui partire per conoscere tutti questi territori, da Sicilia, Puglia e tutte le altre esperienze di Libera Terra. Grazie mille Francesco. E questa grazie è l'esperienza di Liberaterra in Sicilia. Adesso invece noi ci spostiamo da tutt'altra parte, andiamo in Piemonte. E vabbè, non so dove siamo andati a scovare questo Jerry Calà in questo video e io non pago, per parlare del tema sempre caldo del rapporto tra i cittadini e il fisco, e per parlare di un progetto che va avanti da anni, Fisco e Scuola, declinato in questo caso siamo in Piemonte con un'iniziativa nuova. Ne parliamo con Alessandro Tomeo dell'Agenzia delle Entrate di Torino. Buongiorno Tomeo. Buongiorno. La canzone era un po' irriverente per lei che lavora all'Agenzia delle Entrate, perché diceva io non pago, però vabbè, ormai c'è una vulgata, non si sa, bisogna contrastare in tutti i modi questa cosa qua. Era comunque simpatica, ne era comunque simpatico. Certo. Prima di tutto, voi state lavorando nelle scuole con un progetto di informazione che riguarda gli studenti, un progetto che però è partito da alcuni anni a livello nazionale. Intanto due parole su questo progetto Fisco e Scuola, come sta andando, se sta dando dei frutti positivi per voi dell'Agenzia delle Entrate. Certo, sta dando degli ottimi frutti, siamo tutti quanti molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Come ha anticipato, è un progetto a livello nazionale, è nato già nel 2002 e le singole regioni poi declinano a seconda delle esigenze particolari che vengono sentite all'interno della regione, appunto vengono effettuate delle iniziative diversificate regione per regione in cui si vanno a toccare differenti temi ma sempre legati all'ambito fiscale, soprattutto con un occhio di riguardo e sottolineando l'aspetto di educazione fiscale, educazione civica, educazione contributiva. Insomma, il nostro obiettivo, l'obiettivo che si pone il progetto Fisco e Scuola nella sua generalità, è quello appunto di educazione civica, educazione fiscale, cercare di far fare quel salto di mentalità, quel cambiamento di mentalità che porti a considerare il pagamento delle imposte, l'adempimento degli obblighi fiscali non tanto e non solo come un dovere previsto sì. dalla nostra Costituzione, ma come un fatto concreto, reale, un qualcosa che serve ed è utile al paese. Cioè un po' quello che diceva il povero Tommaso Padoa Schioppa quando disse pagare le tasse è bellissimo, no? Che poi venne preso in giro da tutti. Lei mi diceva che il nuovo spot, quello dell'Agenzia delle Entrate, me lo reciti lei? Che io non me lo ricordo. Uno dei due spot che da qualche anno sì. stanno ogni tanto girando sulle nostre reti televisive, quello che se tutti pagano le tasse, esatto, se tutti pagano le imposte ripagano tutti. Cioè, e questo è il concetto che vi sta a cuore a voi, cioè questo di far capire l'importanza del pagare le tasse proprio per poi insomma poter avere indietro i servizi e quindi diciamo i questa cosa che ne derivano a tutti. Ecco, che magari per i ragazzi è un po' meno scontata. Veniamo proprio a quello che fate in classe con i ragazzi, perché in questo caso il vostro progetto è partito il 20 marzo in queste scuole di Torino e provincia, mira a fare un po' particolare, fate una simulazione in pratica di un accertamento. Sì, abbiamo cambiato un po', abbiamo fatto un salto ulteriore rispetto alle iniziative effettuate negli anni passati. Questa volta abbiamo provato a tentare di far vedere ai ragazzi come si svolge un accertamento, come si svolge un controllo fiscale, facendoglielo vedere dall'inizio, proprio dai primi indizi, dagli elementi dai quali poi scaturisce un'indagine. E vista la particolarità di questa iniziativa, per quest'anno abbiamo deciso che questa iniziativa, questo progetto non fosse rivolto alla totalità delle scuole, ma abbiamo mirato di confrontarci con gli istituti tecnici economici, cioè i ragazzi dell'ultimo anno degli istituti tecnici economici che già all'interno del loro corso di studi nell'anno scolastico si confrontano, studiano la contabilità, la ragioneria e cominciano a vedere anche le diverse nella dichiarazioni. Nella concretezza, sì. Ma qual è un po' l'approccio col quale i ragazzi vi seguono? Insomma, un approccio incuriosito, informato, interessato, scettico, perché magari nelle famiglie si sente parlare male di Equitalia, no? Per esempio. È diventato un po' uno sport nazionale quello di sparare su Equitalia, ma noi, preme sottolineare, siamo un ente differente. No, no, ma certo, ma questo sì, però sa, nella mente poi delle persone si fa tutto un fascio. Quello che le chiedevo è, i ragazzi, qual è il loro approccio? Cioè, le domande che vi fanno, le più frequenti, lei è una delle persone che poi va materialmente in classe a parlare, a affrontare questi argomenti. Guardi, la parola con cui mi preme rispondere a questa domanda è entusiasmo. È veramente bellissimo ed è utilissimo anche a noi, perché ci dà ancora più voglia, ancora più forza, ancora più vigore nell'andare avanti, vedere come i ragazzi, in questo caso 18enni, 17enni, dopo un primo momento chiaramente di ambientamento, perché altra novità che abbiamo quest'anno rispetto alle iniziative passate è che li facciamo venire direttamente nei nostri uffici, gli facciamo vedere proprio i luoghi fisici dove operiamo, vedono direttamente le nostre strutture. Quindi così magari scoprono anche qualche trucco e poi vanno a casa e lo dicono, ma guarda, state attenti perché ho scoperto che all'Agenzia delle Entrate si informano così e cosa. No, sto scherzando naturalmente, certo, però certo. Poi c'è anche quell'elemento lì, no? Cioè rendersi conto che voi siete una macchina ben organizzata che funziona e che quindi, insomma, c'è poco da fare i furbi, anche questo, no? Brutalmente, magari non sarà il primo vostro obiettivo, però credo che sia giusto anche che passi questo concetto. Senta, ma per esempio c'è stato questo caso, no? A Milano, assolto l'imprenditore che non pagava le tasse perché, torno sempre a questo tema purtroppo molto popolare, perché aveva dei crediti con lo Stato. Adesso si parla molto anche di questo. Ci sarà qualche figlio che ha un'attività imprenditoriale, il genitore, e che ha qualche credito con le pubbliche amministrazioni, e dirà: ma perché devo pagare le tasse se non c'è da parte dello Stato lo stesso trattamento? Voi come rispondete a questa domanda, immagino difficile per voi? È sicuramente un tema scottante, fra l'altro di estrema attualità, perché insomma la richiesta del pagamento dei crediti che gli imprenditori vantano nei confronti dello Stato è oggetto di attualità proprio immediata di questi giorni. Sì, sì, anche di misure di governo, insomma, certo. Misure di governo, quindi sono argomenti delicati e per nostra fortuna in aula non c'è capitato di avere questo tipo di... Beh, è andata bene, vai, per il momento. È andata benissimo. Va bene, insomma, grazie intanto per essere stato con noi, Alessandro Tomeo dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte a Torino, con questo progetto, la declinazione torinese di Fisco e Scuola. Insomma, buon lavoro, immagino che ne abbiate bisogno. Abbiamo bisogno, grazie. Ci terrei solo un'ultima precisazione e ringraziamento soprattutto da estendere nei confronti di altri enti istituzionali che ci hanno accompagnato in questa nostra avventura e ci accompagneranno in questa nostra avventura fino alla fine, e mi riferisco all'Arma dei Carabinieri, all'INPS, alla SIAE e alla Polizia Municipale, che collaborano con noi in questo progetto, in questa attività. Tutti insieme appassionatamente, ricordiamo, se tutti pagano le imposte ripagano tutti. Grazie, buona giornata. Insomma, avete sentito la storia Fisco e Scuola, così come ce l'ha raccontata questo agente dell'Agenzia delle Entrate, che insomma si occupa di recuperare un po', almeno lì, insomma, nelle scuole della provincia di Piemonte, il nostro rapporto con il fisco, che non è tanto buono. Sembra quasi come quando Papa Francesco ha detto non abbiamo in questo momento col creato un rapporto tanto buono, no? La frase ambientalista di Papa Francesco, e noi non abbiamo un rapporto tanto buono con il fisco, e ci pensano loro, Fisco e Scuola. Questa era una bella iniziativa. Noi aspettiamo anche le vostre segnalazioni, le vostre curiosità, le vostre belle iniziative su Facebook. Vi ricordo, si può fare @Radio24. Poi c'è sempre la segreteria telefonica 828 1212, la mail si può fare @radio24.it, siamo anche su Facebook, si può fare 24, così già che siamo l'abbiamo dette tutte. Adesso una bella notizia per voi, amici degli animali. Side by side, hand in hand. Allora, leggiamo da una segnalazione del WWF in Toscana. Finisce l'inverno, arriva la primavera, sboccia di nuovo la stagione dell'amore. Con la nuova stagione anche i rospi, le rane, i tritoni e tutti gli anfibi escono dai luoghi di svernamento e migrano verso le zone umide per deporre le uova. Forse non tutti sanno che, sembra la settimana enigmistica, ma è verità ragazzi, una delle principali cause di morte di questi animali è rappresentata dalle macchine che letteralmente li tranciano mentre loro attraversano per fare queste migrazioni. E allora noi, colpiti da questa notizia, e visto che il WWF si muove per dare una mano ai rospi, abbiamo convocato Carlo Scoccianti, biologo del WWF Toscana. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora, prima di tutto, poveri rospi, bruttissima questa cosa qua. Come mai? Sì, allora, vabbè, il problema dell'attraversamento di animali sulle strade e il rischio ovviamente di uccisione di loro e anche pericolo di spesso per la sicurezza degli utenti delle strade è noto, penso a tutti, no? Però i rospi in particolare, perché? Sì, cioè ci sono degli animali molto colpiti da questo per vari motivi, per esempio i rospi, ma anche i ricci, per dire una che tutti conoscono, e su cui però si riesce in certi particolari casi a fare molto. Si tratta ovviamente di risolvere i casi delle strade già in uso, già costruite, perché per quanto riguarda le eventuali strade in costruzione, oggi esistono tecniche che sarebbero da adottare per fare in modo che questo non avvenga. Ah, quindi quando si costruiscono le nuove strade si sa già come mettere delle paratie, delle cose. Ci sono già delle possibilità, se uno studia bene questa forma di impatto, dove piazzare la strada e casomai dopo, se esistono ancora dei rischi, come meglio fare dei passaggi sotto e tutto. Dove invece le strade ci sono già e il fenomeno si evidenzia con purtroppo tutte queste stragi, si può intervenire. Naturalmente gli interventi sono subordinati a dove in maggioranza si concentrano questi animali, no? Chiaro che ecco perché nella fattispecie parliamo di luoghi particolari, no? Perché dove siamo? Lo spiego adesso, no? Sì. Molte persone dicono gli anfibi in particolare, perché no, i ricci e tutto. Dunque, dovunque si può concentrare un grosso flusso di animali, si deve intervenire. Proprio per una questione anche di sicurezza stradale, oltre che per la diciamo per mantenere l'ambiente intatto. Allora, gli anfibi cosa fanno? Appena detto lei, che si svegliano dai rifugi dove hanno passato l'inverno, che sono mucchi di foglie, di pietre, molette a secco, il fogliame dei boschi, e vanno per prima cosa a riprodursi, loro sono legati all'acqua per gettare le uova. Poi dopo gli adulti si allontanano. In questa migrazione di andata e ritorno verso le zone umide, sapete ormai oggi sono tutti ambienti molto molto rari, loro si trovano spessissimo ad attraversare una strada, perché al bordo dei laghi in fondo alle pianure o anche dei laghi collinari più piccoli c'è sempre comunque una via di comunicazione. Allora cosa succede? Succede che loro si concentrano, anche centinaia, a volte migliaia di animali in fase riproduttiva, quindi in una fase molto delicata della conservazione della specie, il destino dei futuri anni, e lì vengono schiacciati. Perché vengono schiacciati? Perché la gente non sta attenta, la gente non guarda, la gente è disinteressata a tutto, ahimè. Ma il problema grosso è che loro, per loro diciamo normale, non per una decisione, per il loro normale modo di fare, loro passano e vanno a migrare all'ora del crepuscolo, cioè quindi quella, siccome questa migrazione comincia da febbraio fino ad aprile, generalmente il crepuscolo è intorno alle 5 e tre quarti, poi diventa le 6, poi le 6 e un quarto, no? Cioè a seconda che i giorni si pian piano si allungano, quell'appunto queste ore sono esattamente quelle in cui dovunque c'è tanto traffico, perché la gente anche in campagna torna dal lavoro in città. E gli orari sono sempre quelli, sì. Per due ore dove loro migrano, vengono scherzi. Poi dopo diminuisce, se loro invece migrassero fra le 3 e le 4 di mattina, forse questo bisognerebbe diglielo, bisognerebbe imparare il linguaggio dei rospi e diglielo. Senta, però io una domanda gliela devo fare, ma perché proprio andare a salvare i rospi, voi del WWF? Ora io capisco che non ci avete niente altro da fare, mi perdoni la battutaccia, ma questa la dovevo fare per forza, no? È evidente. Sì, lo so, viene da dire, ma cioè, i rospi hanno un ruolo nella catena dell'ecosistema? Non so, per esempio le api sono fondamentali, qualcuno dice se spariscono le api morirà tutto. Le rispondo subito, però io sono un biologo, un ecologo, ma però queste domande ovviamente le permetto di farle perché servono per fare un po' di scena, ma in realtà sappiamo tutti che qualunque animale, qualunque, ha un suo ruolo nella catena alimentare. Cioè l'evoluzione stessa, la natura stessa, eliminerebbe chi non è utile a tutti. E quella del rospo qual è? qual è? È quello, è un predatore di piccole dimensioni che mangia tutti gli insetti, le lumache, i lombrichi, cioè sta, è una cosa molto importante perché è a metà della catena alimentare, cioè è un personaggio, non solo il rospo, la rana, ma tutti gli altri, questi animali di cui stiamo parlando, sono un anello importantissimo, mediano della catena alimentare del nostro territorio. Cioè, saltando via tutta questa specie, questa classe di animali, tutto il castello crolla, tutta la piramide, compresi noi in cima. Tra l'altro. Ma voi quanti quindi siete non, quando andate a fare questi... Finisco di fare. Allora, noi, come sapete, combattiamo per salvaguardare tutti gli animali, noi compresi come animali, perché ricordiamo siamo anche noi animali, ma il fatto proprio che esistono delle popolazioni che vengono ferite in questa fase riproduttiva centrale, che è il destino, e quindi questo può, se non si fa nulla, è stato provato molte volte con studi scientifici, che vengono completamente eliminati dalla... e con gravi danni sull'ecosistema e sull'equilibrio ambientale. Ecco che non è uno scherzo, diciamo, di persone molto molto brave o molto diciamo, non è è un grande tempo che dedichiamo a questo, ma per una cosa molto importante. Cioè, un grande dispiacere che degli animali certo vadano così inutilmente a morire. Tutto questo sensibilizza anche al fatto che queste zone dove si riproducono sono sempre minori, sono sempre più piccole, in campagna non c'è più abbeveratoi, lo sa, da tanti anni gli animali stanno stabulati in allevamento con tutti i problemi gravi del consumo di carne tristissimo, della non vita che fanno, comunque non esistono più all'aperto, quasi mai, non ci sono più quindi gli abbeveratoi, le pozze, dove ovunque sono stati sempre presenti gli animali nei secoli accanto all'uomo. Questi animali sono ridotti quindi a migrare ancora più lontano, nell'ultimo magari stagnetto o piccolo laghetto rimasto, e vanno addirittura non solo ad attraversare, attenzione, a percorrere spesso le strade per un chilometro o due per raggiungere meglio e più facilmente il luogo. Ma al di là delle battute, noi invece vi ringraziamo veramente, grazie per quello che fate, perché ci ridate un po', riportate a nuova vita pezzi di campagna e anche con il loro ecosistema importanti. Grazie, a parte gli scherzi, Carlo Scoccianti, biologo del WWF in Toscana. Grazie, noi dobbiamo fermarci qua, per oggi è tutto. Io ringrazio Franco Piantani della redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro La Corte che era in regia, a me Ale Maurizi, mi trovate su Twitter, e invece vi lasciamo alla segreteria telefonica. Chiedere maggiore attenzione e una maggiore cura da parte delle istituzioni pubbliche all'insediamento di continui centri di scommesse di giochi, e vorrei segnalarne uno che è già stato segnalato peraltro sulle pagine del Corriere della Sera, in via Marghera, a poche centinaia di metri dalla scuola di Piazza Sicilia e da altre scuole. Io vorrei sapere come mai c'è un proliferare di queste iniziative ammesse, evidentemente, però sono assolutamente diseducative e pericolose. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì.